Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli e benvenuti alla rassegna stampa europea di Radio 24. Cominciamo dall'Economist oggi, lo abbiamo citato nelle settimane scorse, ma veramente questa volta, questa settimana è d'obbligo perché la copertina è proprio intitolata Europe's Economy, l'economia dell'Europa. In il fotomontaggio, l'infografica, chiamiamola così, è un pappagallo rovesciato su se stesso, decisamente non si sente bene, ha una flebo sulla quale c'è il simbolo dell'euro e Angela Merkel, che con il suo sguardo un po' svampito, potremmo dire così, dice it's only resting, sta soltanto riposando. In realtà l'analisi è molto più spietata, cioè quello dell'economy della Merkel potrebbe essere quello che gli inglesi chiamano un wishful thinking, cioè sì, magari stesse solo riposando. In realtà, secondo l'Economist, se l'economia mondiale non è in gran forma, la minaccia di gran lunga più grande proviene proprio dall'Unione Europea, cioè dall'Europa continentale. La copertina è un, tra l'altro, per chi se lo ricorda, fa riferimento in realtà a uno sketch dei Monty Python, e in cui un venditore di animali è la zona euro, che è al limite della deflazione. Per combatterla, l'Europa, scrive l'Economist, dovrà mettere fine al suo comportamento autodistruttivo, e per questo occorre qualcosa di radicale. La migliore opzione, visto che appunto chiediamo, le diagnosi si sprecano, ma le cure poi, sulle cure c'è sempre più incertezza. Ecco, l'Economist avanza la sua proposta, dice la migliore opzione è di accoppiare un forte aumento delle spese per le infrastrutture con l'acquisto di buoni del tesoro da parte della Banca Centrale Europea. Un'altra possibilità è ridefinire le regole di calcolo del deficit in modo da escludere le spese per gli investimenti, il che consentirebbe ai governi di avere deficit più importanti e la BCE fornirebbe una rete di emergenza. La signora Merkel e i tedeschi sembrano pronti ad agire solo quando la moneta unica è sull'orlo del baratro. E su questa questione di escludere alcuni capitoli di spesa come gli investimenti, chi segue Radio 24 e in particolare Focus Economia di Sebastiano Barisoni sicuramente ne ha sentito parlare parecchio, perché appunto è una questione molto dibattuta, su cui però non si è ancora trovato un punto di svolta, cioè le regole restano quelle e questo famigerato tetto del 3%, che per così tanti paesi, Italia compresa naturalmente, è difficilissimo da rispettare se si vogliono avere misure espansive come gli investimenti in infrastrutture per rilanciare l'economia. Passiamo alla Commissione Europea, perché sapete che in questi giorni, nei giorni scorsi, poi il presidente uscente ha rilasciato alcune interviste. Parliamo di José Manuel Barroso, dicevo appunto, sapete, è proprio alla fine mandato, e Liberation gli dedica un articolo intitolato Una modesta uscita di scena per Barroso. Lo trovate praticamente tradotto interamente sul sito che sapete mi è molto caro, che è www.presseurope.eu, che fa una selezione di quotidiani, settimanali, riviste europee, non solo nelle lingue che magari più o meno riusciamo ad avvicinare, ma anche in lingue, come vedremo più tardi, ne cito uno ucraino che è sicuramente invece più difficile comprendere. Ecco, allora in questo articolo si parla di questo duplice mandato, perché José Manuel Barroso è reduce da un duplice mandato alla guida della Commissione Europea, cioè il governo dell'Unione Europea, e però insomma non è, secondo Liberazione, il bilancio non è poi così positivo. Il corrispondente di Liberation, che è uno dei più esperti nelle questioni di Bruxelles, ricorderete che settimana scorsa abbiamo un po' parlato di questo problema che c'è di non avere giornalisti, magari non di non avere giornalisti esperti, ma di non avere giornalisti che in pianta stabile seguono da Bruxelles le questioni europee. E quindi scrive Liberation: Barroso ha cominciato il suo primo mandato a capo della Commissione nel 2005 con un duplice no francese e olandese al progetto di Costituzione Europea. Adesso termina il secondo con un fronte nazionale francese, lo sappiamo, al 25%, e sappiamo che il Fronte Nazionale in questo si trova d'accordo con la Lega Nord e con altri partiti di altri paesi come l'UKIP dei britannici. Vorrebbero proprio che i rispettivi paesi uscissero dall'Unione Europea, non solo dall'euro, e poi ci sono tanti partiti euroscettici che, scrive Liberation, sono spuntati come funghi un po' ovunque. Quindi insomma non è proprio un grande bilancio per appunto quello che potremmo definire il premier dell'Unione Europea degli ultimi 10 anni. Passiamo alle questioni finanziarie che comunque sono importanti e lo saranno anche nei prossimi giorni. Secondo la FAZ, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, i famosi stress test delle banche, di cui avremo il verdetto domani, quindi siamo tutti un po' in attesa di questi stress test, che sono sostanzialmente delle simulazioni per vedere quanto grave è la situazione di alcune banche se la situazione economica dovesse ulteriormente peggiorare. E secondo BaFin, che è l'autorità dei mercati finanziari tedeschi, l'equivalente della nostra Consob, ci sarà qualche turbolenza in questa fase finale degli stress test bancari, i cui risultati, come vi dicevo, saranno diffusi domani. E Elke König, che è il presidente della BaFin, ha spiegato sia alla FAZ che alla Börsenzeitung, che è un altro quotidiano finanziario, che è quasi un miracolo essere riusciti a riportare tutti i dati correttamente in questo template, in questo modulo precompilato con tutti i campi da compilare, con 130 banche da seguire e un tale flusso di informazioni disponibili. Per questo, prima della pubblicazione dei dati, ci saranno ancora alcune piccole correzioni, spiegava appunto Elke König, che sicuramente è una burocrazia, questa europea, a cui gli tedeschi sono meno abituati di noi italiani, che invece di moduli precompilati o da compilare complicatissimi ne abbiamo visti tanti nelle nostre carriere di contribuenti o come persone o come aziende. Naturalmente noi aspettiamo con grande ansia anche quello che verrà, il punteggio e l'esito che questi stress test stanno sulle banche italiane, e comunque la FAZ sembra abbastanza ottimista, perché comunque insomma le banche tutto sommato forse sono messe bene a questo punto, visto che tante sono state salvate in Spagna e in Portogallo, di quelle forse di altri paesi. Ma sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung è apparsa anche un'intervista a una ministra, anche se non mi piace molto questo termine, però forse prima o poi entrerà nel linguaggio e suonerà meno stonato, ecco, diciamo così. Comunque la ministra in questione è Marianna Madia, che è il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e ha spiegato, insomma cerca di spiegare ai lettori tedeschi che il governo Renzi, e lei per la sua parte, vuole fare è naturalmente di semplificare, davvero modernizzare quell'incubo che per molti è, e forse anche questo messaggio è passato anche fuori dall'Italia, quell'incubo che è appunto la pubblica amministrazione per gli italiani. Passiamo un attimo alle Figaro, perché anche in questo caso vediamo che a volte questioni che crediamo prettamente italiane poi così solo italiane non sono. Le Figaro si occupa del TGV, che è il famoso treno ad alta velocità francese, che sicuramente l'alta velocità è stata introdotta in Francia molti anni prima che lo fosse in Italia. Io non lo ricordavo, ma appunto nel 1981, e sicuramente è stato un fiore all'occhiello del governo francese, che l'ha ampiamente finanziata. Ora però questo investimento risulta veramente oneroso, e addirittura secondo Le Figaro, che lo ricordiamo è un quotidiano di centrodestra, che quindi assolutamente pro libero mercato quasi sempre, scrive oggi: il TGV è a pezzi e per la Corte dei Conti francese segue un modello economico che non è più sostenibile, perché anche lì naturalmente bisognerebbe o alzare molto le tariffe per sostenere i costi dell'ammodernamento dei binari e anche magari dell'ampliamento delle tratte, oppure tenere le tariffe calmierate, ma allora poi qualcosa ci deve mettere lo Stato, con tra l'altro il rischio di infrangere delle regole dell'Unione Europea del finanziamento, perché quando vengono fatte delle agevolazioni poi appunto vengono visti come delle regole che infrangono la libera competizione sul mercato, e quindi poi sì, le aziende possono le aziende che gestiscono i trasporti, anche se parzialmente pubbliche, possono essere sanzionate. Passiamo un attimo al Financial Times, che invece si è occupato di David Cameron, perché ci sono state delle indiscrezioni pubblicate proprio da Financial Times, secondo le quali la Commissione Europea sarebbe il Consiglio Europeo, scusate, sarebbe pronto a chiedere alla Gran Bretagna un aumento del contributo all'Unione Europea. Questo ha fatto infuriare Cameron, che ha chiesto addirittura una riunione di emergenza dei ministri delle finanze dell'Unione Europea. È chiaro che questa per Cameron è una questione di primaria importanza, perché ha quasi perso ha quasi perso lui come governo, ma comunque è stato quasi perso il referendum che poi in realtà ha confermato che la Scozia resterà parte dell'Unione Europea, e lui era naturalmente si era schierato a favore della permanenza della Scozia all'interno del Regno Unito, e però uno degli argomenti principali di chi voleva l'indipendenza era proprio proprio l'uscita dall'euro. Quindi adesso se Cameron si trova a dover spiegare a chi faticosamente è stato convinto che comunque la Scozia può far parte del Regno Unito e quindi dell'Unione Europea, che invece la Gran Bretagna dovrà dare più soldi all'Unione Europea, beh, capite che è un bel problema. Accennavo all'inizio, proprio il tempo per un'ultimissima segnalazione, la questione Ucraina, perché domani in Ucraina si vota e quindi il quotidiano Den, che appunto sono riuscita a tradurre grazie al sito Press Europe, pubblica un articolo che si intitola Abbiamo speranza. Infatti quasi un anno dopo che la rivoluzione che ha spiazzato il regime, lo ricorderete, filorusso di Viktor Yanukovych, adesso l'Ucraina si appresta a votare. Sono elezioni politiche anticipate e si tratterà sicuramente, scrive Den, di un test per il presidente Poroshenko, il cui partito, si prevede, secondo i sondaggi, potrebbe ottenere fino al 40% dei voti. E insieme ai partiti alleati, Poroshenko potrebbe contare su 240-250 seggi e a questo punto forse avere un pochino più potere contrattuale sia all'interno del suo paese che anche magari con il grande rivale russo. Era l'ultima segnalazione, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.